terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Sedevano sopra una panca di legno sulla terrazza sommitale della quarta ridotta. Ortiz era andato a trovare il tenente Drogo, che era di servizio. Fra i due si formava di giorno in giorno una buona amicizia. Essi sedevano sopra una panca, avvolti nelle mantelle, gli sguardi abbandonati a se stessi, in direzione del nord, dove si accumulavano grandi nubi informi piene di neve. Soffiava di quando in quando il vento settentrionale, gelando addosso i vestiti. Le alte cime rocciose, a destra e a sinistra del valico, si erano fatte nere. Drogo disse: «Io credo che domani nevicherà anche qui alla fortezza». «È probabile», rispose il maggiore senza alcun interesse, e tacque. Drogo disse ancora: «Nevicherà. Continuano a passare i corvi». «La colpa è anche nostra», fece Ortiz, che inseguiva un ostinato pensiero. «Dopotutto ci tocca sempre quel che si merita. Angustina, per esempio, era disposto a pagare caro, noi invece no. È tutta qui forse la questione. Forse noi pretendiamo troppo. Tocca sempre quel che si merita, effettivamente». «E allora?» chiese Drogo. «Allora che cosa dovremmo fare?» «Ah, io niente», disse Ortiz con un sorriso. «Io ho aspettato troppo oramai». «Ma lei?» «Io che cosa?» «Se ne vada finché è in tempo. Torni giù alla città, si adatti alla guarnigione. Dopotutto lei non mi sembra il tipo da disprezzare i piaceri della vita. Farà più carriera che qui, certo. Non si è poi nati tutti per fare gli eroi». Drogo taceva. «Lei ha lasciato passare già 4 anni», diceva Ortiz. «Ha ottenuto un certo vantaggio per l'anzianità di carriera, ammettiamo pure, ma pensi quanto più le sarebbe servito starsene in città. È rimasto tagliato fuori dal mondo. Nessuno si ricorda più di lei. Ritorni fino a che è in tempo». Gli occhi fissi per terra, Giovanni ascoltava muto. «Ne ho visti già altri», continuò il maggiore. «A poco hanno preso l'abitudine della fortezza. Sono rimasti imprigionati qua dentro, non sono stati più capaci di muoversi, vecchi a 30 anni, effettivamente». Drogo disse: «Le credo, signor maggiore, ma alla mia età...» «Lei è giovane», riprese Ortiz, «e lo sarà ancora per un pezzo, è vero, ma io non mi fiderei. Solo che lasci passare altri 2 anni, bastano anche soli 2 anni, e tornare indietro le costerebbe troppa fatica». «La ringrazio», disse Drogo, che non era per niente impressionato, «ma in fondo, qui alla fortezza, si può sperare in qualche cosa di meglio. Sarà assurdo. Eppure, anche lei, se è sincero, deve confessare...» «Forse sì, purtroppo», disse il maggiore. «Tutti, più o meno, ci ostiniamo a sperare». «Ma è assurdo! Basta pensarci un poco!» E faceva segno con una mano verso il nord. «Da questa parte mai più potrà venire una guerra. Adesso poi, dopo l'ultima esperienza, chi volete che ci creda ancora sul serio?» Così diceva, e intanto si era alzato in piedi, sempre guardando al settentrione, così come quel lontano mattino, sul ciglione del pianoro, Drogo l'aveva visto fissare, incantato, le mura enigmatiche della fortezza. 4 anni erano passati da allora, una rispettabile frazione di vita, e niente, assolutamente niente, era successo che potesse giustificare tante speranze. I giorni erano corsi via uno dopo l'altro. Soldati, che potevano essere nemici, erano comparsi al mattino ai bordi della pianura straniera, poi si erano ritirati dopo innocue operazioni confinari. La pace regnava sul mondo. Le sentinelle non davano l'allarme. Nulla lasciava presagire che l'esistenza sarebbe potuta cambiare. Come negli anni passati, con le medesime formalità, ora avanzava l'inverno e i soffi della tramontana producevano contro le baionette un debole fischio. Ed eccolo ancora là, il maggiore Ortiz, in piedi sulla terrazza della quarta ridotta, incredulo alle proprie sagge parole, guardare una volta di più la landa del nord, come se lui solo avesse realmente il diritto di guardarla, lui solo il diritto di rimanere lassù, non importa a che scopo. E Drogo, invece, fosse un bravo ragazzo fuori di posto, che aveva sbagliato i calcoli e avrebbe fatto bene a tornare. Fino a che la neve sulle terrazze della fortezza diventò molle e i piedi affondavano come nella melma. Il dolce suono delle acque giunse improvvisamente dalle più vicine montagne. Qua e là, lungo gli apicchi, si scorgevano strisce bianche verticali che scintillavano al sole e i soldati ogni tanto si sorprendevano a canticchiare, come da mesi non facevano. Il sole non corse più via come prima, ansioso di tramontare, ma cominciava a fermarsi un po' in mezzo al cielo, divorando la neve accumulata, ed era inutile che le nuvole si precipitassero ancora dai ghiacci del nord. Di neve non riuscivano più a farne, solo la pioggia potevano, e la pioggia non faceva che sciogliere quella poca neve che restava. Era tornata la buona stagione. Già si udivano al mattino voci di uccelli che tutti credevano avere dimenticate. In compenso, i corvi non se ne stavano più riuniti sul pianoro della fortezza ad aspettare i rifiuti delle cucine, ma si sparpagliavano per le valli in cerca di cibo fresco. Di notte, nelle camerate, le assi che sostengono gli zaini, le rastrelliere per i fucili, le stesse porte, anche i bei mobili di noce massiccio nella camera del signor colonnello, tutti i legni della fortezza, compresi i più antichi, mandavano scricchiolii nel buio. Certe volte erano colpi secchi, come pistolettate. Sembrava che qualche cosa andasse veramente in pezzi. Uno si risvegliava nella branda e tendeva le orecchie. Nulla però riusciva a sentire, se non altri scricchiolii che bisbigliavano nella notte. Ecco il tempo in cui nelle vecchie assi risuscita un ostinato rimpianto di vita. Moltissimi anni prima, nei giorni felici, era un giovanile flusso di calore e di forza. Dai rami uscivano fasci di germogli. Poi la pianta era stata abbattuta e adesso che è primavera, in ognuno dei suoi frammenti ancora si sveglia, infinitamente minore, un palpito di vita. Un tempo foglie e fiori, ora soltanto un vago ricordo, quel tanto per fare crack, e poi basta, fino all'anno 21. Ecco il tempo in cui gli uomini della fortezza cominciano ad avere curiosi pensieri che non hanno niente di militare. Le mura non sono più riparo ospitale, ma danno l'impressione di carcere. Il loro aspetto nudo, le strisce nerastre degli scoli, gli spigoli obliqui dei bastioni, il loro colore giallo, non rispondono in alcun modo alle nuove disposizioni di spirito. Un ufficiale. Dalle spalle non si può capire chi sia, e potrebbe essere anche Giovanni Drogo. Cammina, annoiato, nella mattina di primavera, per i vasti lavatoi della truppa, a quest'ora deserti. Egli non ha da fare ispezioni o controlli, gira così, tanto per muoversi. Tutto del resto è in ordine, le vasche pulite, il pavimento spazzato e quel rubinetto che spande non è colpa dei soldati. L'ufficiale si ferma guardando in su, a una delle alte finestre. I vetri sono chiusi, da molti anni probabilmente non sono stati lavati e negli angoli pendono ragnatele. Nulla c'è che conforti in qualche modo l'animo umano. Pure, di dietro ai vetri, si riesce a scorgere una cosa che assomiglia a un cielo. Quello stesso cielo, pensa forse l'ufficiale, quel medesimo sole illumina contemporaneamente gli squallidi lavatoi e certe praterie lontane. Le praterie sono verdi e ci sono nati da poco piccoli fiori di presumibile colore bianco. Anche gli alberi, come è giusto, hanno messo le foglie nuove. Bello sarebbe cavalcare senza scopo per la campagna, e se per una stradetta in mezzo alle siepi avanzasse una bella ragazza e quando ci si passa vicino a cavallo lei salutasse con un sorriso. Ma che ridicola cosa! Sono mai ammissibili per un ufficiale della fortezza Bastiani così stupidi pensieri? Attraverso la polverosa finestra del lavatoio, per quanto possa sembrare strano, si riesce a vedere anche una nuvola bianca di forma piacevole. Nuvole uguali navigano in questo momento sopra la città lontana. È gente che passeggia placida, ogni tanto le guarda, lieta che l'inverno sia finito. Quasi tutti hanno vestiti nuovi o rimessi in ordine. Le giovani donne portano cappelli con fiori e abiti a colori. Tutti hanno l'aria contenta, come se aspettassero da un momento all'altro cose buone. Una volta almeno era così. Chissà se adesso è venuta una moda diversa. E se a un davanzale ci fosse una bella ragazza, e quando ci si passa sotto lei salutasse, senza nessuna particolare ragione, lei salutasse amichevolmente con un bel sorriso. Tutte cose in fondo ridicole, sciocchezze, da collegiale. Attraverso i vetri sporchi si scorge di sghembo un tratto di muro. Anch'esso è inondato di sole, ma non ne risulta letizia. È la parete di una caserma. Che ci sia il sole o la luna per il muro è affatto indifferente, basta che non nascano ostacoli al buon andamento del servizio. Il muro di una caserma e nient'altro. Eppure, un giorno, in un lontano settembre, l'ufficiale era rimasto a guardarlo quasi affascinato. Allora queste mura sembravano custodire per lui un severo ma invidiabile destino, sebbene non riuscisse a trovarle belle. Egli era rimasto immobile per alcuni minuti, come dinanzi a un prodigio. Un ufficiale gira per i lavatoi deserti, altri sono di servizio alle varie ridotte, altri cavalcano sulla sassosa spianata, altri siedono negli uffici. Ciascuno non riesce a capire bene cosa sia successo, ma le facce degli altri gli danno ai nervi. Sempre le stesse facce, pensa istintivamente. Sempre gli stessi discorsi, lo stesso servizio, gli stessi documenti. E intanto fermentano teneri desideri. Non è facile stabilire con esattezza che cosa si vorrebbe. Certo, non quelle mura, quei soldati, quei suoni di tromba. Corri allora, cavallino, per la strada della pianura. Corri prima che sia tardi, non fermarti, anche se stanco, prima di vedere i prati verdi, gli alberi familiari, le abitazioni degli uomini, le chiese, i campanili. E allora addio, fortezza. Fermarsi ancora sarebbe pericoloso. Il tuo facile mistero è caduto. La pianura del nord continuerà a rimanere deserta. Mai più verranno i nemici, mai nessuno verrà ad assaltare le tue povere mura. Addio, maggiore Ortiz, melanconico amico che non sei più capace di staccarti da questa bicocca, e come te tanti altri, troppo a lungo vi siete ostinati a sperare. Il tempo è stato più svelto di voi e non potete ricominciare. Giovanni Drogo invece sì. Nessun impegno lo tiene più alla fortezza. Adesso ritorna alla pianura, rientra nel consorzio degli uomini e non sarà difficile che gli diano qualche incarico speciale, magari una missione all'estero al seguito di un generale. In questi anni, mentre lui era alla fortezza, certo sono andate perdute molte belle occasioni, ma Giovanni è ancora giovane. Gli rimane tutto il tempo possibile per rimediare. Addio dunque, fortezza. Con le tue assurde ridotte, i tuoi soldati pazienti, il tuo signor colonnello che ogni mattina, senza farsi vedere, scruta col cannocchiale il deserto del settentrione. Ma è inutile, non c'è mai niente. Un saluto alla tomba di Angustina. Forse è stato di tutti il più fortunato. Lui almeno è morto davvero soldato, meglio comunque che nel probabile letto di un ospedale. Un saluto alla sua camera. Dopotutto Drogo ci ha dormito onestamente centinaia di notti. Un altro saluto al cortile, dove anche stasera, con le solite formalità, si schiereranno le guardie montanti. L'ultimo saluto alla pianura del nord, vuota oramai di illusioni. Non pensarci più, Giovanni Drogo. Non voltarti indietro, ora che sei arrivato al ciglio del pianoro e la strada sta per immergersi nella valle, sarebbe una stupida debolezza. La conosci pietra per pietra, si può dire, la fortezza Bastiani. Non corri certo il pericolo di dimenticarla. Il cavallo trotta allegramente, la giornata è buona, l'aria tiepida e leggera, la vita ancora lunga davanti, quasi ancora da cominciare. Che bisogno ci sarebbe di dare un'ultima occhiata alle mura, alle casematte, alle sentinelle di turno sul ciglio delle ridotte? Così una pagina lentamente si volta, si distende dalla parte opposta, aggiungendosi alle altre già finite. Per ora è solamente uno strato sottile. Quelle che rimangono da leggere sono in confronto un mucchio inesauribile. Ma è pur sempre un'altra pagina consumata, signor tenente, una porzione di vita. Dal ciglio del sassoso pianoro Drogo, infatti, non si volta a guardare. Senza neppure un'ombra di esitazione, sprona il cavallo giù per la discesa. Non accenna a voltare neanche di un centimetro la testa. Fischietta una canzone con passabile disinvoltura, sebbene questo costi fatica. Thank you. casa fu aperto e Drogo sentì subito l'antico odore domestico, come quando da bambino ritornava in città dopo i mesi di estate in villa. Era odore familiare ed amico, eppure dopo tanto tempo vi affiorava alcunché di meschino. Gli ricordava, sì, gli anni lontani, la dolcezza di certe domeniche, le liete cene, la fanciullezza perduta, ma parlava anche di finestre chiuse, di compiti, di pulizia mattutina, di malattie, di litigi, di topi. «Oh, signorino!» gli gridò esultante la buona Giovanna, che gli aveva aperto la porta, e subito arrivò la mamma, grazie a Dio, non ancora cambiata. Seduto in salotto, mentre tentava di rispondere alle tante domande, sentiva mutarsi la felicità in tristezza svogliata. La casa gli pareva vuota in confronto a un tempo. Dei fratelli uno era andato all'estero, un altro era in viaggio chissà dove, il terzo in campagna. Soltanto la mamma restava e anche lei dopo un po' dovette uscire per una funzione in chiesa dove la attendeva un'amica. La sua camera era rimasta identica, così come l'aveva lasciata. Non un libro era stato mosso, pure gli parve di un altro. Si sedette sulla poltrona, ascoltò il rumore dei carri nella via, l'intermittente vocio che veniva dalla cucina. Solo se ne stava nella sua stanza. La mamma pregava in chiesa, i fratelli erano lontani. Tutto il mondo viveva dunque senza alcun bisogno di Giovanni Drogo. Aprì una finestra e vide le case grigie, i tetti dopo i tetti, il cielo caliginoso. Cercò in un cassetto i vecchi quaderni di scuola, un diario che aveva tenuto per anni, certe lettere. Si stupì di aver scritto lui quelle cose, non se ne ricordava proprio. Tutto si riferiva a strani fatti dimenticati. Si sedette al piano, tentò un accordo, ma riabbassò il coperchio della tastiera. E adesso? Si domandava.